Kellogg. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Stamattina sono sceso dal letto e fluttuavo. I piedi non toccavano per terra, solo per qualche secondo, ma è successo davvero. Ti sto dicendo che credo di saper volare. Se sai volare, perché non ti butti dal ponte di Brooklyn e vedi cosa succede? Forse dovrei cominciare con qualcosa di più basso, un po' come quando si impara ad andare in bici. Mi succede anche a me di volare. Volo di notte sulla A26 da Alessandria a Genova. L'autostrada completamente libera, io plano a un millimetro da terra. Io volo in continuazione. Sarà perché dipingo, cosa non lo so, oppure perché la mia realtà è questa. Però faccio dei voli acrobatici dalle montagne a terra, su e giù, in continuazione. Ed è una cosa da sballo. Oggi è la giornata del silenzio, in cui bisogna stare attenti, misurare le parole, perché non si può solamente influire su quelle che sono le espressioni del voto degli italiani. Quindi, dopo essermi lungamente arrovellato alla ricerca di un argomento il più neutro possibile, ho pensato di scegliere il più folle. E quindi questa mattina parleremo della nostra capacità di volare. Noi possiamo volare, siamo capaci di volare. Quanti di voi hanno la capacità e la tecnica individuale per il volo? Io personalmente ho molto volato, ho abbastanza volato, ho moderatamente volato negli anni folli della mia giovinezza, ho fatto il paracadutista, quindi mi capitava di volare. E devo dire che è una bella sensazione quando improvvisamente ti rendi conto che non sei nel vuoto quando voli, ma l'aria è un fluido che si modella sul tuo corpo. Il tuo corpo è come se fosse un aliante, a seconda di come allunghi le gambe, apri le braccia, metti le braccia dietro a forma di cuneo, abbassi o alzi la testa che è un timone, ti muovi nell'aria e voli perfettamente. Certo che era un volo condizionato, a un certo punto bisognava aprire il paracadute, se no ci si sfrittellava a terra, però era qualcosa, era già qualcosa. Ma questa non è la mia più profonda e individuale esperienza di volo, è un'esperienza abbastanza banale. Si fa un corso, si cominciano a fare i lanci, si fa una progressione, poi si lancia, ci si lancia sempre da più in alto. Quando ci si lancia da 5, 6, 7, 8, 9.000, 10.000 metri, c'è molto tempo prima di aprire il paracadute, e quindi uno vola assieme a altre persone, è molto bello. Ma questa è qualcosa che attiene a un'attività sportiva limitata? No, c'è una forma molto più individuale, molto più segreta, più intima, che ognuno conosce. E quando la notte improvvisamente ci si rende conto che si vola, non è sognare di volare, è proprio volare. Ognuno ha il suo metodo, ognuno ha il suo sistema personale, ognuno ci è arrivato attraverso propri percorsi. Questa cosa non si racconta mai, una cosa molto intima, si passa per folli a raccontarlo, sembra di mostrare un aspetto debole, futile alla propria personalità, però tutti noi sappiamo che in realtà è possibile volare, che accade quella particolare cosa che improvvisamente durante la notte ci si trova a volare sopra i tetti, a volare sopra i balconi, a cominciare a pensare nell'euforia di rendersi conto consapevolmente, lucidamente di stare volando, di poter andare, non so, a visitare quella persona, affacciarsi a quella finestra, cruzare dietro quei vetri. Beh, se a voi è accaduto, sicuramente è accaduto, se avrete il coraggio e la spudoratezza questa mattina di raccontarlo, sono qui ad ascoltarvi. 800240024. Almeno ho la sicurezza che se parliamo di volo nessun politico sentirà inquinato nei suoi programmi elettorali. Ho imparato a volare, diciamo, da circa una decina d'anni, battendo proprio le mani, come simulando il volo di un uccello. E la prima volta mi sono staccato pochissimo da terra, però una volta che ho imparato, volo quando voglio io. Mi sollevo da terra leggermente, poi sbatto di più le mani fino ad arrivare ad aprire le braccia. E una decina d'anni fa è successo che ho preso con me mia figlia che dormiva e l'ho portata in giro. Lei si è svegliata e mi ha detto: papà, cosa fai? Allora io gli ho detto: zitta, vieni con me. L'ho portata sulle mie spalle, ho aperto la finestra e ho cominciato ad andare in giro per Milano, dappertutto, in alto, in basso, volando proprio come un aereo, prendo le braccia e volando. È stata un'esperienza veramente fantastica ed ogni volta che io decido di volare, volo. Non è da prendere alla lettera quello che dice il nostro ascoltatore, che nessuno apra la finestra, allarghi le braccia e comincia a agitarsi. No, è qualcosa di ineffabile, qualcosa di impalpabile, non è qualcosa che avviene così nello stato di normale veglia, no, avviene in quei momenti fatati in cui siamo sospesi fra una dimensione e l'altra, fra uno stato e l'altro, avviene senza che noi facciamo nulla di concreto perché ciò avvenga, però avviene. Marco, buongiorno. Buongiorno. A lei come avviene? Avveniva, adesso non più, insomma. Quant'è, comunque, quant'è che non vola più? Da un periodo molto lontano, diciamo, perché no, diciamo per entrare nei sogni. Diciamo che la giovinezza è il periodo migliore, il periodo di massima attenzione alla capacità di volare, poi uno se lo dimentica come si faccia. Facevo finta di mettere una cassetta, una cosa incredibile, mi sembrava che l'armadio davanti a me, quando ero piccolo, davanti al letto, fosse come una specie di grande mangiacassette, e ci mettevo una cassetta ed entravo dentro nei sogni volando. Cioè, e poi sono arrivati i CD e ha smesso di volare. Una cosa del genere, sì. Quindi lei metteva questa cassetta nel mangiacassette del suo armadio? Sì. E praticamente vedevo le nuvole e dalle nuvole sbucavo volando giù, cadendo giù, insomma. Quindi lei aveva fatto, diciamo, ricostruiva questo set ogni volta, sapeva che... Ogni sera. E come avveniva il volo? Vedeva, diciamo, come si vede dall'alto quando si vola con un aereo, la città in prospettiva? Sì, come una caduta, praticamente dalle nuvole, prima vedevo le nuvole, avevo avuto delle esperienze di volo grazie a mio zio che mi aveva portato su un aereo e avevo delle esperienze di volo abbastanza serie, insomma, quindi capivo già quello che potevo vedere. In effetti quando si va in caduta libera capita che a quota un po' più bassa ci siano degli raggruppamenti di nuvole, è una bella sensazione entrare nelle nuvole, ci si tuffa improvvisamente, scompare il mondo, anche la visione che si ha, si cade a una velocità che va sui 120-150 km all'ora, però il mondo si vede abbastanza nitido sotto, i colori si vedono molto lucidi, poi quando si entra in nuvole improvvisamente scompare tutto, si è un po' come in quegli ambienti alla Matrix in cui tutto è bianco intorno, si è avvolto in qualcosa di lattiginoso e quando si riesce esplode improvvisamente il sole, quindi qualcosa del genere nel suo sogno avveniva? Sì, praticamente sì, poi quando stavo bene, quando ero felice, diciamo, riuscivo anche a quasi sbattere le mani o le gambe, la caduta non finiva con una rovinosa sfrittellamento a terra come ha detto lei, ma semplicemente fluttuando sopra. Planava, diciamo, planava. Esatto, sì, sopra gli alberi, soprattutto sopra la campagna. Come quando col paracadute che si stalla la vela per arrivare a terra piano piano. Grazie, Ruggero, buongiorno. Buongiorno. Sì. Ieri mi è capitato, premetto che volo tutti i giorni leggendo qualche libro. Ogni no, parliamo di esperienza concreta, non metafora, sì. Volo, anch'io volo. Quando bevo margarita faccio certi voli, però voglio parlare di esperienza concreta. Mi è capitato proprio ieri sera mentre disegnavo. Di solito io mi alleno nel disegno perché mi piace dipingere. Uh-huh. Stavo disegnando una figura di Milo Manara e ho messo sottofondo una musica di Diana Crow. Uh-huh. In quel momento mi sono sentito veramente così leggero da poter volare. E dopo mi hanno raggiunto anche le mie due figlie e ho notato in loro quella leggerezza, quel saper volare con il disegno, con quel sottofondo. Volavano meglio di lei le ragazze, naturalmente. Ma sicuramente. Lo so. Proprio... con Diana Kroll è stata una... Il problema è che più cresciamo più ci dimentichiamo questa nostra facoltà di volare, i ragazzi volano molto di più, poi improvvisamente prendiamo in giro questa nostra facoltà, diciamo ma sì, ma che si vola, come diranno questa mattina quelli che sentono, dice Nicoletti questa mattina che sei fatto, figuriamoci, non si può volare, noi siamo legati alla pesantezza del nostro corpo, dei nostri pensieri, dei nostri doveri, dei nostri impegni, che si vola. Beh, provate un attimo a ascoltare le persone che stanno chiamando e poi ditemi se sono soltanto io a pensare questo. Stella, buongiorno. La sua tecnica di volo? Ah, io sono bravissima a volare, è una cosa incredibile ed è una cosa che mi lascia ogni volta che ho il privilegio, diciamo, di fare questo sogno, mi lascia veramente a bocca aperta. Però è importante, Stella, capire che ognuno ha la sua tecnica. Il signore prima metteva la cassetta nel mangiacassette e volava. Per lei come avviene? Di solito c'è una ritualizzazione delle operazioni di decollo. A lei come avviene? Ma io solitamente mi trovo già in cielo, in alto, non ho mai assistito alla mia al decollo sì. Alla partenza, no, però la cosa incredibile è riuscire a salire, scendere, sfiorare le persone, avvicinarmi agli alberi, risalire. Quindi lei in qualche maniera dirige il suo volo? Sì, sì, sì, ma in una maniera incredibile, è come quando si sogna di saper parlare perfettamente una lingua. Ecco, quali sono i comandi, ad esempio, per scendere, per salire? Io per le nozioni che ho di aerodinamica, noi abbiamo due assi, asse di rollio e asse di beccheggio, a seconda di come muoviamo gambe, braccia, testa, questa almeno noi possiamo dare una direzione al nostro corpo. Questo avviene nella caduta libera. Lei come funziona per lei? Ma io soprattutto, secondo me, utilizzando le braccia, cioè movimento più ondulatorio. Le braccia, certo, sì. Sì, sì, braccia, più che beccheggiare, se il termine che si usa anche in banca, sì. È più quello proprio ondulatorio, di riuscire a... Beh, per avere una direzione lei deve muoversi sui due assi. O diciamo picchiare verso terra o alzare verso l'alto o muoversi a destra o a sinistra. Sì, sì, beh, forse entrambe le tecniche, ora che me lo spiega, sì. Probabilmente. Quindi entrambe. Lei controlla, l'importante è lei controlla il suo corpo. No, ma sì, sì, è incredibile ed è un privilegio questo sogno. L'atterraggio come avviene? Ma io non atterro quasi mai, rimango sempre su, non atterro e non decollo. Quindi lei le due fasi di atterraggio e decollo non le ha lucidamente ben presenti, però è presente, diciamo, la sua capacità di governare il suo corpo quando sta volando. Esatto, e sono una che ha abbastanza paura dell'aereo, eppure là do il mio meglio volando. Grazie Stella. Mauro? Mauro? Eccomi. Tecnica di volo di Mauro. Ah, niente, io non ho nessuna cognizione di volo, non ho brevetto, non ho nulla, eppure io piloto regolarmente idrovolanti da sempre e so decollare, so atterrare, so volare e non mi spiego il perché. Non so, quindi lei vola con un apparecchio per volare, non vola solo a corpo libero? Io piloto regolarmente idrovolanti. Lei è un idrovolante a quando vola? No, piloto idrovolante, anche non sono un idrovolante, io piloto idrovolante. Regolarmente ho il mio molo, salgo su un idrovolante, decollo, atterro, volo e non ho ovviamente nessuna cognizione di volo normalmente. Però lei quando vola che guida l'idrovolante ha perfettamente cognizione di volo, sa esattamente cosa bisogna assolutamente, fare. Assolutamente, assolutamente. E cosa fa con questo idrovolante? Volo. Ho la... volo da solo, volo con amici, con parenti, volo come prendere la mia auto e andare da qualche parte. E anche, diciamo, anche l'ammaraggio poi è semplicissimo, scende giù, ritorna lì. Se io avessi conoscenza delle tecniche di volo. Ecco, la cosa vorrei domandare ai miei ascoltatori, 800240024, è cosa... osservate nel momento del volo, stiamo mettendo a punto le varie tecniche individuali, abbiamo visto, vedete, non è che ho scoperto nulla di particolare, ne sto dicendo eresie, ne sto seguendo un filo di follia, ogni essere umano comunque ha la sensazione, l'esperienza del volo, non so perché questo accada, non me lo voglio nemmeno spiegare, non è qualcosa che mi interessa confrontarmi con persone che hanno la spudoratezza questa mattina di raccontare con dovizia di particolari la loro esperienza di volo. Abbiamo visto che c'è una sensazione di pilotare il proprio corpo o, come dice l'ultimo ascoltatore, un aereo, qualcosa, una macchina volante che noi guidiamo, sappiamo improvvisamente come si possa pilotare. Abbiamo tutte le cognizioni anche se nessuno ce le ha insegnate. Ma cosa vediamo quando voliamo? Voliamo su un mondo noto, su una topografia per noi riconoscibile. Io mi ricordo che i miei voli di gioventù avvenivano in Umbria, quindi io seguivo il corso del Tevere perché volando lungo il Tevere potevo arrivare a Roma, quindi mi piaceva seguire la piana del Tevere, camminavo lungo il Tevere volando e arrivavo fino a Roma. Andrea. Ah, salve, ciao, buongiorno. Io volevo dire che sin da quando mi hanno regalato un binocolo a 8 anni ho incominciato a guardare il cielo, per cui ho guardato il cielo per anni. Fino a, chiaramente con il sogno di un giorno riuscire a volare. Non sono riuscito a fare il pilota e appena ho potuto ho incominciato a volare con tutto quello che potevo. Per cui ormai mi ritrovo a 50 anni ad aver volato con mongolfiere, deltaplani, tutti aerei esistenti, l'amarezza di non averlo potuto fare personalmente praticamente. Beh, sta raccontando che ha volato, qual è la differenza? poterlo fare io di prima persona. Ah, come stanno raccontando i nostri ascoltatori, quindi lei sì. Si accontenta di surrogati, mongolfiere, deltaplani, aerei, sì. Non vola sì. Come stanno volando i nostri ascoltatori, non ha trovato ancora la tecnica individuale. Oh no, no, no, se per quello riesco ad astrarmi concretamente, riesco a volare leggendo. Sì, ma qua non stiamo parlando di metafora, vorrei spiegarmi perché sennò sì. Siamo su un piano che non ci incontriamo. Le persone che stanno telefonando, con le quali non ho nessuna difficoltà di dire condivido l'esperienza, parlano di un'esperienza reale di volo concreta. Avviene probabilmente in una dimensione della nostra consapevolezza che non è quella della quotidiana veglia, però ogni essere umano sa che comunque lo tiene risposto come un suo segreto, come qualcosa che non si racconta, che sembra stupido e fanciullesco raccontare, ma una volta fatta la richiesta precisa, ognuno cade il velo del pudore e lo racconta. Si tratta di volo reale, concreto, le persone volano. Poi se il loro corpo in quel momento rimane ancorato tra le lenzuole del loro letto è una circostanza indifferente, la loro coscienza vola. Stefano. Sì, buongiorno. Sì. Salve, senta, io volevo raccontare un po' la mia esperienza, come diceva lei. Praticamente io ho 58 anni, all'età di 17 anni mi trovavo, dormivo, insomma stavo in stanza, nella mia stanza, dormivo. A un certo punto di notte appunto mi sono trovato a fluttuare, perché mi sentivo fluttuare sul tetto, sul soffitto della mia stanza, che era luminoso in quel momento, cioè c'era la luce sufficiente di poter vedere tutta la mia stanza dall'alto, e mi sono meravigliato, vedevo anche me stesso, stavo sul letto, dormivo, e mi sono talmente meravigliato e spaventato che sono tornato immediatamente nel mio corpo fisico e mi sono svegliato. Poi diciamo ricordavo ancora questa esperienza con un certo spavento. Poi successivamente, negli anni, a distanza prima di pochi mesi, poi anche negli anni, mi è ricapitata di nuovo questa esperienza e ho preso confidenza e ho provato a vedere e di trovarne giovamento, cioè una certa soddisfazione, un certo gusto, e ho provato a vedere di muovermi, oltre a fluttuare così passivamente, e facendo dei movimenti con le braccia, con le gambe. Quindi anche lei aveva la sensazione di poter in qualche maniera regolare il suo volo, non era un volo scomposto e passivo, era un volo attivo. Sì, dopo il primo impatto, diciamo, la prima esperienza che è stata di spavento, diciamo, e quindi... No, spiegami un attimo Stefano, perché sto leggendo gli sms e mi fanno molto sorridere. Il primo, che me lo aspettavo che arrivasse puntuale, è arrivato. Ma Radio 24 permette che vadano in onda queste baggianate. Adesso quale legge umana e divina stiamo violando? Quale razionale tenuta della propria rettitudine stiamo violando? Semplicemente se chiediamo alle persone di raccontare un sogno comune, un sogno condiviso, che è quello di volare. Altri mi dicono non esagerare col margarita, siete pazzoidi, siete fatti, siete drogati e via dicendo. Mi sorprende molto l'incapacità di potersi concedere anche soltanto un'ora di leggerezza da parte degli esseri umani. Provate poi un'ora a pensare che in realtà se una parte cospicua dell'umanità fa questo sogno di volare, non c'è nulla di male a raccontarlo. Io sono un essere profondamente razionale, credo profondamente nella verificabilità scientifica di ogni cosa che viene attestata e raccontata, quindi non è che sto facendo una trasmissione alla Giacobbo, non sto dicendo e parlando di poteri occulti, di metafisiche irrazionali, di fantasmatiche visioni, no, semplicemente un'esperienza che si fa. Molti sognano durante il sogno di volare, hanno una loro particolare tecnica di volo, lo tengono riposto nel profondo della loro memoria, questa mattina lo raccontano, non trovo niente di strano. Perché faccio questa trasmissione? Perché oggi sì, si sta votando, non mi va di trattare argomenti concreti, ogni argomento concreto potrebbe avere una sua valenza politica, non mi va di impicciarmi di quello che stanno facendo gli italiani, che faremo tutti noi italiani, quindi parlo di volo, potrò avere questo diritto. Carlo, buongiorno. Buongiorno. Carlo, sì. Ah, niente, io due giorni fa non è che abbia sognato di volare, sono volato nel fosso. Racconti, beh, anche questa è un'esperienza. È stato molto interessante perché la planata, io non ho brevetti, no? Però la planata è stata infinitamente lunga e, su questo sott'argine innevato. Ma come è avvenuto? Come è avvenuto? Lei cos'era, in automobile o a piedi? Ero in automobile, sì sì. Nel mezzo di nulla, nella campagna, sott'argine, ghiaccio, ho perso il controllo col retrotreno e dopo c'è stato questo momento in cui ho detto no, e poi volavo perché la strada è sopraelevata rispetto al piano campagna. Quindi... Che dislivello avrà diciamo, un metro e mezzo. Quindi però ha avuto la consapevolezza in quel momento di stare volando? Sì, proprio è perché è stato proprio l'ordine di idee, uno spaesamento totale, sentivo che non c'era più sotto di me, no, il tessuto connettivo dell'asfalto, quindi... Quindi lei, diciamo, le è rimasta questa esperienza del volo, è stato un tempo dilatato rispetto al tempo quotidianamente da noi vissuto e aveva la percezione di stare volando. Cosa ha pensato in quegli istanti? Che sono state frazioni di secondo, immagino. Sì, però ho pensato che ci avrei lasciato le penne, perché sentivo che avevo perso ogni riferimento, il controllo dell'autovettura, questo ho sognato, questo ho sentito. Ma è vero che si vede tutta la propria vita come in un film velocemente in quel momento? No, non ho visto nulla, io non proiettavo nulla quella sera lì, no. Melog. La realtà condivisa. Più che altro un fluttuare, diciamo, radente, dai 15 metri a proprio un metro e mezzo, accarezzando magari l'erba. Ho volato per tutta la vita, bastava allargare le braccia, fare un saltellino per poter sollevarmi da terra e poi cominciavo a volare proprio veramente nelle nuvole, oltre le nuvole. Il problema grosso che ho sempre avuto era quello di stare attento ai fili della luce. I can fly. 800 24 0024, in questa uggiosa, piovosa, nevosa giornata elettorale, noi parliamo dell'esperienza del volo. L'esperienza del volo che ognuno comunque ha nel più riposto sacello della propria memoria e questa mattina deve avere il coraggio di raccontarla alla radio, se vuole naturalmente. Qualcuno si irrita perché dice state parlando di cose futili, ma oggi non possiamo che parlare di cose futili, quindi piuttosto che parlare del futile inutile, parliamo del futile profondo, che è la nostra capacità, la nostra convinzione, che comunque almeno una volta nella vita ognuno di noi è stato capace di volare. Luisa, buongiorno. Buongiorno. Ho sempre avuto una passione per l'idea del volo. Da bambina sognavo di fare il pilota di aerei, dopo naturalmente non l'ho fatto. Ma come esperienza fisica, a parte andare in aereo qualche volta, mi è capitato di volare quando arrampicavo. E volare vuol dire quando stai andando da primo di cordata e hai un passaggio troppo difficile, non riesci a farlo, oppure ti lasci andare anche volutamente per riprovare e ti trovi nell'aria, è una cosa velocissima, non controlli, non ricordi niente, non capisci niente, non vedi. Quindi la sua è un'esperienza lucida durante, diciamo, una tecnica di arrampicata, non è qualcosa che appartiene al sogno. Però appunto c'è un'altra esperienza invece di volo spirituale, diciamo così. Una volta praticavo meditazione e succedeva questo. Mi mettevo seduta all'indiana, mi rilassavo. Ma era sola o c'era? Da sola. Spada del e fuoco. Ad un certo punto veramente io sentivo che il peso del corpo non c'era più. Cominciavo a muovere le braccia e sentivo veramente, mi stavo alzando nell'aria, stavo levitando, esattamente, e vedevo colori. Vabbè, questo è un altro tipo di esperienza, un po' più singolare, un po' più difficile, non ho elementi per poterlo dire. Comunque questa è la mattina della libertà di raccontare il proprio volo, ognuno racconta come può volare a modo suo. Barbara, ciao, buongiorno. Allora, mi senti? Come no? Allora, io sin da piccola ho sempre sognato di volare, fino a qualche anno fa. Non è mai stata una cosa così facile come avete descritto fino adesso. Cioè, nei miei sogni io volavo nuotando a rana e ci devo mettere un po' di impegno. Non so se è perché soffro di vertigini, non ho mai volato in esterni. Ho sempre volato in interni conosciuti. Potevano essere la casa dei nonni, le scale. Quindi erano voli radenti, bassi, il massimo l'altezza del soffitto. Ecco, esatto, una cosa del genere, protetti forse, non lo so. Non ho mai avuto il coraggio di uscire dalla finestra. Chi lo sa perché, saranno le vertigini. In realtà nell'addormentarmi, quando c'è quella fase in cui il sogno è un po' pilotato, sì, l'immagine del sorvolare la città, le zone note, però appena poi dormivo... Ma perché vola rana? Perché controlla meglio il volo? Sì, probabilmente sì, credo che anche il mio subconscio pensi che ci voglia un pochino di sforzo, di impegno per ottenere il volo, e allora c'era l'attività muscolare, come nuotare, forse perché quando uno nuota è un po' come volare? L'assenza di peso. Non so la spiegazione, raccolgo soltanto testimonianze. Giancarlo. Buongiorno Nicoletti, anch'io ho sognato di volare, direi un 5-6 volte, e la mia tecnica è molto semplice. La zona è sempre campagna, quindi in spazi aperti. Corro, spingo la testa verso indietro, all'indietro, e comincio a prendere quota. E poi regolo la quota attraverso il movimento della testa, e la sensazione più bella è quando faccio delle picchiate e faccio una virata intorno all'albero. E come fa a girare? Solo con la testa? Non saprei, non ricordo l'uso delle mani. Perché lei nel suo sogno comunque l'aerodinamica del corpo umano è corretta. A corpo libero, la testa è un timone, quando andiamo in caduta libera la testa è un timone, se guardiamo verso il basso picchiamo, questo è logico, non è che possiamo salire di quota, ma la testa comunque ha un'influenza molto importante, certo. Nell'aerodinamica del corpo, quindi nella inconsapevolezza e nel sogno ripercorre quello che è una concreta tecnica di controllo del proprio corpo in caduta libera. Claudia. Buongiorno. Sì. Allora, io voglio grazie per questa trasmissione, perché io ho provato il problema del volo, cioè mi sentivo volare, staccare da terra, raggiungere il soffitto se ero al chiuso oppure all'aperto, però soprattutto quando ero anche al chiuso, questa sensazione di raggiungere il soffitto e in mezzo alla gente, ad occhi aperti, quindi di giorno, senza uso di droghe, eccetera. Poi io ho vissuto... cosa vedeva? Vedeva le persone, diciamo, dall'alto, sì, dal soffitto? Sì, cioè io mi staccavo, una forma di levitazione, mi hanno detto. E questa cosa era bellissima perché io avevo, sia da bambino, sempre sognato di volare, facendo proprio il decollo... E quindi io ma racconti come faceva, perché non è così sì, banale. Ha ragione. A un certo punto tu cammini e piano piano con le rotelle dell'aereo senti lo stacco della terra. Ti stacchi. In più, facendo la ballerina professionista, noi abbiamo una tecnica di salto, quindi la sensazione di volare. Poi io l'ho anche vissuto fisicamente, ma l'ho iniziata da bambina e poi dopo avevo questo distacco dal suolo che è stato... Per tanti anni io non ho potuto confidare a nessuno perché mi avrebbero dato della pazza, capito? Questo è stato una forma di... Non l'ho mai detto a nessuno, è la prima volta? No, l'ho detto una volta a una sessione di sciamani. Mi hanno detto che è una forma... Dove sono le sessioni sciamani? Dove si fanno? In Toscana, c'è un festival... Festival degli sciamani, cioè? No, sono proprio dei corsi dove ti insegnano delle tecniche sciamaniche, però io semplicemente avevo detto... Però non è che lei già sapeva ballare quando c'è andata, quindi... Sì, avevo già anche finito di ballare. Cioè adesso non mi viene il nome, c'è un notissimo ballerino, faceva un balletto particolare, si librava in maniera talmente sublime che sembrava che volasse. Manijinsky, bravissima. Ecco. Che ha il ballo delle rose, una cosa del genere. Sì, beh, lui è stato proprio un... Ci sono delle foto, foto dell'epoca, sì. Naturalmente, noi stiamo parlando forse di un secolo fa, sì, un po' com'è. Sì, di un secolo fa. E sembrava che si staccasse nel volo. Sì. Poi c'è anche da dire una cosa, che c'è veramente anche tra i ballerini chi ha uno stacco naturale da terra, vabbè anche negli atleti, ma dico, senti proprio il corpo che, come una forza esterna a te. Si capisce che la legge fisica che ci inchioda per la gravità al terreno in realtà è una legge sulla quale si possono fare i conti. Importante capire la tecnica che noi non conosciamo, però probabilmente esiste. Grazie, Donatella. Allora, buongiorno, prima di tutto, dunque io da piccola ho sempre sognato di volare con una tecnica però da uccellino principiante, nel senso che mi mettevo nel terrazzo e da lì a braccia aperte, tipo ali, insomma volavo, però in genere ho sempre volato nel circondario della mia abitazione, insomma del mio quartiere. Poi in tarda età in effetti ho avuto invece un volo... significativo, nel senso che non so, ho avuto un malessere, una cosa del genere, sono volata nella stanza, ma proprio, cioè col distacco dal corpo. Dunque vedevo il mio corpo, vedevo mio marito che cercava di rianimarmi, insomma, però come quelle esperienze di premorte che uno galleggia sopra il corpo e vede tutto. Guarda, sotto io non lo so, io sono una persona attia, non ho cognizione. Sì, ma mica mi occorre, però se qualcuno lo racconta evidentemente scatta qualcosa a un certo punto, è come l'iPad che ha due telecamere, una avanti e una dietro, ci si scatta la telecamera dietro e riusciamo a vedere noi in prospettiva. Guardi, io questo episodio non l'avevo mai raccontato. È capitato poi un giorno di sentire in televisione che invece succede ad altre persone, però le dico che è un'esperienza di volo bellissima. Ma lei si vedeva chiaramente? Io mi vedevo chiaramente, vedevo l'affanno di mio marito che cercava di... mi schiaffeggiava, insomma, la cosa mi faceva... Pezzi se lo vedeva contento, che delusione. Sarebbe stata una cartina di tornasole. Quindi si affannava, lei come ha fatto? Poi è rientrata dentro dalla bocca e si è rimessa nel corpo? Io sono rientrata scendendo lievemente ed è stata una cosa un po' dolorosa, perché io non volevo rientrare. E si stava tanto bene, chiaro. Quello che dicono tutti, quello che dà un po' di speranza, che in realtà la nostra coscienza sia qualcosa con un livello di materialità inferiore al corpo, che però è qualcosa che permane al disfacimento del corpo. Ma poi entriamo nel campo delle teorie. Comunque mi piace che lei lo racconti. Emanuele. Sì, io ho iniziato dall'inizio, ho iniziato planando, poi piano piano nel tempo ho perfezionato la mia tecnica. Fino a 20 anni fa, circa, sì, 20-30 anni fa, in cui ho fatto un corso di subacquea e da lì ho imparato effettivamente a volare anche in spazi aperti, ho imparato a decollare senza più dover ricorrere ai tetti, ai marciapiedi, piuttosto che... Ecco, quindi lei ha messo a punto una sua tecnica di volo individuale dopo aver fatto il subacqueo. L'università del volo mi sono costruito. Ma riesce ancora a volare oppure è una cosa che appartiene al passato? È una cosa che appartiene purtroppo al passato. Ho smesso, credo, 10 anni fa, in funzione di problematiche di lavoro probabilmente... Però aveva imparato a farlo bene, diciamo, non aveva più bisogno di un trampolino. Non avevo più bisogno di trampolini di lancio, mi mettevo in qualsiasi posizione ero, cominciavo a librarmi a mo' di rana, facevo due passi, cominciavo a salire piano piano verso l'alto, nuotando a rana, poi quando ero in alto cominciavo a direzionarmi tranquillamente. Non è la prima persona, evidentemente il nuotarana è qualcosa che dà l'idea che si aggredisca il cielo in maniera più efficace. Melog, la realtà condivisa. Sono decollata senza rendermi conto, nel senso che non percepisco il decollo, percepisco a un certo punto di essere in uno stato di sospensione e mi sono trovata in un quadro di Magritte. Ecco, io invece ho bisogno di un piccolo pendio, di una discesa, di un qualche cosa che mi permettesse di raggiungere una velocità un attimino superiore, e una volta che mi staccavo da terra volteggiavo, volavo, però nei miei sogni non c'è stato mai un rientro, mi svegliavo o mi addormentavo così volando. 800240024, tutti mi stanno segnalando occasioni concrete di volo. Il parapendio, sì, il parapendio è una delle attività interessanti, si sale su una montagna in un pendio come fosse un deltaplano, ci si butta giù e si vola. Noi stiamo parlando di qualcosa di più individuale, più personale, più intimo, è il volo a corpo libero, è il volo che ognuno di noi sogna ogni tanto durante la notte di fare, ma sono sogni così lucidi, così consapevoli e soprattutto così reiterati e soprattutto così condivisi. È lo stesso sogno che fa tutta l'umanità, da far pensare che in realtà sia qualcosa che sia molto vicino a un'esperienza reale. Olivia, buongiorno. Sì, sono Olivia dalla provincia di Monza e Brianza. Tanto complimenti per l'argomento perché è fantastico. Mi ha fatto rivivere le sensazioni che provavo purtroppo tanti anni fa, perché poi da quando sono diventata mamma non è più successo di sognare di volare. Però la particolarità del mio volo forse è questa. Io volavo tanto più in alto quanto più credevo nella mia capacità di volare, quindi non appena sentivo calare la fiducia nella mia capacità di stare sollevata da terra, io scendevo di quota. È come dice Peter Pan a Wendy quando gli insegna a volare, dice devi crederci. Ecco, penso sì, più o meno sia proprio così, cioè ci voleva proprio tanta fiducia nelle mie capacità. Comunque era fantastico, sia che volassi raso terra, sia che riuscissi a sollevarmi sopra la città. E quello che mi dispiace proprio che purtroppo forse ho dovuto, il mio inconscio mi ha fatto con i piedi per terra, diciamo, quando sono diventata mamma. E il periodo del volo com'è stato? Cosa vedeva quando volava? Quando volavo... Quando era Peter Pan sopra il mondo? Sopra il mondo, esattamente, ma sopra un mondo che conoscevo comunque. Quindi niente riconosceva la sua città, le strade? Sì, a volte riuscivo, magari riatterravo a casa mia dal balcone, raccontavo la mia esperienza, oppure riuscivo anche a portare con me qualcuno, un po' proprio come Peter Pan e Wendy, ecco, un po' così. Prendevo per mano e credendoci, cioè cercando di convincere anche l'altra persona, chiunque fosse, che io avevo la capacità di farlo, quindi in quel momento dovevo avere doppia fiducia nelle mie capacità, riuscivo a portare in alto anche altre persone. Le veniva mai la curiosità di andare a guardare dentro case altrui, dietro i vetri? No, questo no, era proprio una sensazione di libertà, quindi di andare fuori e casomai di portare con me qualcuno che potesse vivere le mie stesse sensazioni. Amalia, buongiorno. Buongiorno a voi. No, vedo che questa mattina Amalia mi conforta, richiamano tante donne, evidentemente sono le prime a riuscire a essere così spudorate da raccontare il loro volo. Forse siamo un po' sensibili. Comunque, io, come la signora di prima, quella che vi aveva anticipato, racconti ho avuto una sensazione di proprio extracorporea. Ero a letto che dormivo, avevo appena partorito il bimbo. E mi sono ritrovata fuori del mio corpo, nella camera, in alto, a guardarmi che dormivo. Poi mia mamma mi ha chiamato e sono rientrata, ma una sensazione, si stava bene fuori. Sono rientrata molto, molto pesantemente nel mio corpo. Come la signora di prima, forse non volevo rientrare. Queste sono quelle le esperienze che chiamano di premorte, esatto. Accade negli incidenti. Non è proprio esattamente la stessa cosa, però anche c'è una sensazione di volare. Sì. Sì, ho avuto anche l'altra esperienza. Anche l'altra. Quella di volare durante la notte mentre si dorme. E come fa a volare lei? Qual è la tecnica? La prima volta mi sono spaventata perché mi sono ritrovata, sentivo che salivo, ero nel mio giardino fuori di casa, era giorno, quando volo vedo giorno, vedo il sole. Invece lei è di notte che ha questa esperienza? Sì, io la faccio di notte, però è giorno. Vedo il sole. Cioè nella dimensione del volo si vola in un mondo che è illuminato dal sole? Per me sì. E per lei così? Sì. Mi sono alzata e la prima volta mi sono spaventatissima perché ero sopra gli alberi e ho detto mamma mia adesso cado. E invece poi le volte successive mi alzavo dritta, poi mi mettevo come l'aereo, diciamo, con la testa, le gambe, mi muovevo e riuscivo a spaziare. Quindi ha imparato anche lei a volare? Sì, è bellissimo. Grazie Filippo, un altro volatore. Nicoletti, buongiorno. Sì. Grazie del bel argomento che in una giornata come oggi... È quello che ci vuole, no? Infatti, assolutamente. Io volevo intervenire nella trasmissione per raccontare un mio sogno, ma ho sentito invece un ascoltatore e mi è venuto in mente che io ho fatto un altro volo molto più concreto, andando giù da un viadotto dell'autostrada. Lei guidava, e stava guidando? Mentre guidavo, colpo di sonno, ho tamponato un furgoncino davanti a me e che mi è servito da rampa e la macchina si è alzata e ha cappottato più volte in aria o nell'autostrada e poi sono uscito dall'autostrada volando in un campo. Ecco. Ecco, quello se lo ricorda bene, questo volo concreto. Me lo ricordo benissimo, tra l'altro mentre volavo sopra le macchine perché vedevo i fari, pensavo accidenti quanto è robusta questa macchina, perché senti non succede niente. Veramente. Era come un aereo in quel momento la sua. Una sorta di pilota, sì, mi ha dato l'impressione di essere ovviamente cinture, bag e quant'altro, quindi fortunatamente non mi sono fatto niente. Atterrando il volo è durato qualche secondo, senza rumore. Quindi una vita. Che è una cosa strana, assolutamente sì, una vita. È una cosa strana, in silenzio, nel buio, perché ovviamente era notte, e atterrando in un campo ho cominciato a sentire degli strani colpi. Non capivo che cos'era, nel buio, lei si immagina. E cos'era? Era l'autista del furgoncino che col cric che dava la giunta. Il furgoncino si è fermato da una parte, impaurito. Però erano, non erano altro che i pali della recinzione dell'autostrada, che non so se vedete al fianco dell'autostrada, sì, che si infilzavano nel fianco della macchina, tirati dentro dalla quindi era proprio passata, è stato baciato dalla fortuna. Sì, ma tra l'altro devo dire, me l'ha fatto venire in mente lei mentre ascoltavo la sua trasmissione, che ho trovato un angelo, perché in mezzo a un campo, nella campagna, a 40-50 metri dal era il trans che batteva al bordo della strada che l'aveva travolto. No, a un certo punto è arrivato, vedo una luce, un grido, io non capivo bene perché ero ben trasformato, non è altro che un autista di camion che mentre era fermo a fare la pipì, da una parte gli aveva visto questo incidente ed era venuto a prendermi e mi ha detto, me lo ricordo benissimo. Beh, gli angeli che ci fanno la pipì addosso, onestamente, ancora non fanno parte della nostra visione dell'universo. Però la cosa molto dolce, mi ha detto: guarda, ho chiamato tutti, vengono tutti, non ti preoccupare, io devo andare via. E continuava a fare la sua funzione, no? Perché sono senza documenti e quindi bisogna che vada via. Vabbè, è stata una bellissima esperienza. Tiziana. Buongiorno, volevo soltanto aggiungere un piccolo sassolino, diciamo, a tutta la trasmissione. Non credo che sia stata detta la mia tipologia di esperienza. Anche io ho sempre sognato di volare, bla bla, però purtroppo la mia sensazione di distacco dal terreno si collega al dolore. Cioè io ho sempre sofferto fin da piccolina di fortissimi mal di testa e soprattutto negli ultimi anni, nel momento in cui il mio mal di testa arriva proprio al culmine, io sento che il mio corpo perde peso, mi stacco proprio dal letto, perché sono a letto. Cioè il culmine dell'emicrania è talmente acuto che a un certo punto perdo il contatto con il corpo. Sì, e mi sento proprio perdo il peso, perdo la mia gravità e mi sento proprio sollevare. Dura poco, però capisco che sono arrivata proprio al culmine del mio mal di testa. A me è successa una cosa del genere una volta, che un dentista ha provato a togliermi la radice di un dente senza anestesia. Devo dire che il dolore, quando arriva ad essere talmente forte, a un certo punto si diventa evanescenti, sembra di volare, non sentivo più la punta dei piedi. Lui stava lì che arrovellava dentro la mia bocca, ho fatto, io stavo già volando. Grazie, ci sentiamo dopo domani.